vieni che ti offro da bere. Vieni, questa è l'ultima volta che stiamo insieme e parliamo di noi. Poi sarà quel che sarà. Bevo e mi sembra veleno. Parlo ma non so quel che dico. Vedo che tu hai vuotato il bicchiere. Ora ti alzerai e te ne andrai. Vorrei che tu adesso dicessi ho scherzato, ma sento che non sei già più qui. Vieni che ti offro da bere. Vieni, questa è l'ultima volta che stiamo insieme e parliamo di noi. Poi, come vuoi, finirà. Oh, vieni, che ti offro da bere. Vieni, questa è l'ultima volta. Stiamo insieme e parliamo di noi. Poi come poi finirà. Poi come poi finirà. Poi come poi finirà.